Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oi, buonasera Peppe. Complimenti per il programma. Vi seguo sempre dalla mattina alla sera. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'astio. Questo non credo. No! Il numero di telefono per chiamarci 800 24 00 24, perché ve lo do? Perché voglio sentire subito, immediatamente, caro Parenzo, le vostre reazioni, che non abbiamo sentito abbastanza dopo i fatti del primo maggio, che ancora restano dentro la mia testa, ancora la gente è furibonda per quello che è avvenuto. Lei titilla, amico mio, lei titilla. Ma io titillo per un motivo. Ma io titillo per un motivo, perché ti pare normale che un ministro degli interni, il signor Angelino Alfano, che tu appoggi, amico tuo, sì, no, amico no, amico no, però amico, che tu appoggi, ci dica, beh, assolutamente è sì, stato un successo. Ma un successo clamoroso, un successo. Le macchine bruciate, no, le macchine bruciate, perché i non è morto nessuno non è morto nessuno. E beh, cazzo, ma ragazzi, una guerriglia pazzesca, una guerriglia di piazza con prego, agenti chiamatelo, feriti, chiamate Parenzo, ma è una e distruggetelo, ma è una oggi più che mai. È una guerriglia, è stata, e della i poliziotti hanno rischiato la vita, c'erano dei civili, della gente in mezzo che ha rischiato. Ti pare normale che c'è uno dei sindacalisti, per carità, è un sindacalista della polizia, dunque sempre in battaglia con i propri superiori, diciamo. Un sindacalista che oggi dice, si chiama Tonelli, segretario di un sindacato di polizia che si chiama SAP, che dice potevamo prenderne 100, cioè potevamo arrestarne 100, ci è stato impedito. È una cosa gravissima, ci è stato impedito dai superiori. Quei magistrati che hanno scarcerato che hanno scarcerato il giorno prima alcuni anarchici, questa è un'altra cosa. Black bloc. Questa è un'altra cosa. Lui dice esattamente questo, che c'erano 100 persone che loro potevano arrestare perché in flagranza di reato e le direttive erano quelle di non arrestare per non esacerbare gli animi. Questa è l'Italia che ci governa, amici miei, questa è l'Italia. La direttiva sarebbe di Alfano di non arrestare nessuno. Certo, la direttiva politica, dice lui, comunque è gravissimo quello che dice, gravissimo. Oh, però io vorrei iniziare, io non mi arrendo di fronte al fatto che non si possa fare nulla, di fronte a un ministro degli interni che no, ci dice... Io mi arrendo. No, non mi arrendo di fronte al fatto che ci sia un ministro degli interni che ci dice... Oh, quelli sono teppisti, fanno ridere, feccia. Mi fai finire un attimo, sì, che sì, ci dice, beh, ragazzi, alla fine è andata pure bene perché non c'è scappato il morto. Beh, questo... Un tuo amico, mio amico, lo conosco anch'io, che è un deputato del Partito Democratico che si chiama Fiano, sì, milanese, in un'intervista alla stampa ha detto anche... Beh, sono state bruciate solo 10 vetture. Solo 10. Sì, ma non lo diceva, vetture, non lo diceva per dire chi se ne frega delle no, vetture. Certamente diceva, no. Diceva però le è cose. È la mentalità. Ma non cioè, allora, figurati se sai che cosa diceva? Stai dicendo che Fiano appoggia questi. No, tutt'altro, anzi, cosa... Fiano li ha combattuti. Aspetta, questi. Fermo. È minacciato da questi. Lo sai che cosa diceva un famoso sindaco di New York? Giuliani. Credo che fosse uno prima di Giuliani, molto prima di Giuliani, che lui però ha ripreso questa frase. Nemmeno un vetro rotto voglio nella mia città. La filosofia dovrebbe essere questa: proteggere la città a ogni costo. Anche un vetro rotto è una devastazione. Non sembra pensarla così l'amico Fabio Fazio, il signor Fabio Fazio, che poi ha cercato di specificare, di non dico di correggere, ma come di spiegare. Come hai lottato col signor Fazio tu? Beh, amico come mio, stavo lottato? Vedendo, ero seduto in una camera d'albergo, anzi steso in una camera d'albergo, un albergo lussuosissimo, molto lussuoso, sì, molto lussuoso di Trieste, molto lussuoso. Ero steso lì. L'hotel a 5 stelle va al signor Cruciani. Beh, certo, sì, ero ospite della Maratona di Trieste. Allora, ho acceso la televisione e mi sono messo a sentire Fabio Fazio, il monologo di Fazio. Così per caso, non è che lo faccio sempre. Per caso specifico, non vorrei essere accusato di mettermi in collegamento a sentire il monologo di Fazio. No, non lo faccio quasi mai. Però ero lì e ho messo questa roba qui. E ho sentito queste parole. Per fortuna la forze dell'ordine hanno lavorato benissimo, è stato tutto circoscritto in una zona molto limitata, insomma, quindi alcuni hanno scritto devastazione, adesso dire, insomma, è stato tutto per fortuna grazie alla lucidità delle forze dell'ordine molto, molto misurato e circoscritto, anche se ovviamente le immagini erano orrende. Io vorrei dire solo che non erano solo le immagini orrende, c'era anche qualche cosa, qualche oggetto distrutto, no? Alcuni hanno scritto devastazione. Beh, insomma, dice Fazio, beh, insomma, devastazione. Era una devastazione. Sì, ma alcuni hanno detto anche, no, ma andate a leggere sul vocabolario la parola devastazione. Ma che c'entra? La devastazione è anche una sola auto bruciata. Ma non c'è dubbio. Una sola auto bruciata e le forze di polizia inermi. Inermi non perché non volessero intervenire, perché le direttive erano quelle di non provocare scontri con queste tute nere. Poi ci sono molte dietrologie su da dove vengono queste tute nere, perché non si riesce mai a fermarle, e sono utilizzate anche da quello che viene chiamato il potere, no? Il potere per oscurare certe cose, per non far parlare dei problemi, perché c'è gente che la pensa così, eh? Stupidaggine. Non lo so. Anche le parole del capo della polizia mi hanno colpito. Panza, che signor dice? Panza, brava persona, signor Panza. Vabbè, ma nessuno mette in dubbio che sia una brava persona, ma non bisogna dirlo, che ne sai che è una brava persona? Io penso, mi sembra un bravo gestore dell'ordine pubblico. Spero, comunque dice, le auto bruciate sono una tattica, senti. Io immagino, so perfettamente, l'impressione è anche la mia, quando vedo per televisione un giovane mentre incendia una macchina delle polizie a poche decine di metri, perché non interviene? E una polizia erano in grado di intervenire, potevano intervenire, non si mettevano paura, sicuramente avevano tutte le capacità per intervenire, ma la tecnica era proprio quella, farci allontanare di lì e farci scontrare direttamente con l'intero corteo, e quindi non abbiamo abboccato. Io devo dire la verità, trovo questo ragionamento, con tutto il rispetto, io non gestisco l'ordine pubblico, dunque non dovrei parlare, però sono un cittadino che paga le tasse, tante tasse, come paghi tu e come paga le tasse chi è stato colpito da questa devastazione, e dunque si ha il diritto di commentare anche le parole del capo della polizia, il quale dice che un poliziotto vede un'auto bruciare, un tizio che magari... Cioè vede un signore che commette un reato, sostanzialmente. Esatto, vede un signore che butta dentro una bomba, no? E dopodiché per tattica non interviene, perché se interviene può darsi che succeda un macello. Ora dico, ma ragazzi, ma veramente voi pensate che tutto questo sia normale? Io penso che non sia normale. Questo non credo. E sbaglia secondo me anche Renzi quando parla di quattro teppistelli figli di papà, perché non è vero, no, non sono quattro teppistelli con Rolex, perché sì, ma perché uno è stato inquadrato con Rolex, non è che tutti sono così, alcuni saranno ricchi, altri saranno operai, altri saranno disoccupati. Che Rolex può essere anche taroccato, esatto, non è che c'è la prova che sia Rolex vero. Uno ha visto Rolex, pure Alfano non ha detto, manifestanti con Rolex, ma di che stiamo parlando? Quello è un Rolex, che ne sai se è vero, finto, eccetera. Renzi, Hanno scippato la festa? Beh, sicuramente hanno cercato di rovinarcela, ma voglio dirlo con molta serenità, quattro teppistelli figli di papà non riusciranno a rovinare l'Expo, e Milano è molto più grande di quello... Sentiamo qualche scontro, va. Picerno è eurodeputato del Partito Democratico versus Salvini, come sapete, onnipresente anche qui alla Zanzara, per carità, in tutte le salse, in tutte le trasmissioni TV. Posso finire una un attimo, signorina, posso? Signorina, lo dice a tua sorella, diciamo, tanto per cominciare, e abbi un po' di rispetto. Dai, adesso non iniziamo. Non abbiamo confidenza. Dai, adesso usciamo dalla dialettica linguistica. Prego, dai. Lei lo sa che è un onorevole, quindi dai, su, Salvini. Ancora, ancora. Bene che l'onorevole dà lezione di buona educazione a me e poi dice che della signorina doni a sorella? Vada un po' a scuola, signorina. Vada a imparare l'educazione, signorina, onorevole. Allora, onorevole, mi scusi, onorevole. Va bene, scusi se non ho detto onorevole. Possiamo uscire da questa situazione, anche perché francamente, no? Pina, ecco, così va bene. Qua Matteo, Pina, questi delinquenti potevano essere fermati oltre confine. Allora andiamo col traffico 800 24 00 24, poi fino alle 19, fino alle 19 eccezionalmente vostre telefonate, poi una puntata pazzesca con interviste, cose incredibili sempre su questi fatti di Milano, ma non solo. Traffico, veio chi là, vero chi là. La Zanzara. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te. Siamo ad alti livelli qua, eh. Allora ragazzi, cominciamo con Filippo dalla provincia di Venezia, vai Filippo. Ciao a tutti. Niente, io volevo dire due cose, fare una considerazione e una proposta. Ma si è mai pensato, quando fanno queste manifestazioni, di mettere delle guardie armate dentro sulle banche, sui negozi, quelli più in vista di quei signorini, lì per proteggere quei negozi? Non so, forse una cazzata. Sì, forse una cazzata, però non ho capito bene. Cioè, mettere i poliziotti dentro le banche. Delle guardie armate. Sono già davanti alle banche, le guardie armate. No, quando ci sono manifestazioni come questa, le banche chiudono. Barak e Burattini chiudono. Erano comunque chiuse. Certo, perché era il primo maggio. Poi le aprono, infatti. No, non ho capito qual è la proposta però, Filippo, scusami. Sì, di mettere delle guardie armate per proteggere queste banche, questi negozi. Ho capito, questi... amico mio, ma quelli arrivano in massa e la polizia non interviene e le guardie armate che fanno? Perché sì, è un pensiero mio, non volevo... Ma non è un pensiero, è una stronzata. Che vuol dire proteggere? Dovrebbe essere le forze dell'ordine a proteggere beni e altre cose di una città. Perché infatti io penso una cosa, che la vera tortura è questa che hanno fatto a questa città, secondo me. Altro che quello de... la tortura che ne parlano. Ah, lei dice da la tortura l'ha subita Milano, ma non l'hanno subita quelli della Diaz. Sono due cose diverse, però. Raffaele, Milano, vai. Sì, ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Ti ringrazio. Quando sono sul mio taxi mi sembra di stare al bar a discutere. Una cosa favolosa, guarda, sembra di stare al bar. Che compagnia sei? Che compagnia di taxi sei, Raffaele? 024040, Toro 66. Sembra di stare a incazzarsi al bar, guarda, bellissimo. È un grande, viva i taxi, viva i taxi sempre, vai Raffaele. Ascolta, vai. Io volevo dire solo una cosa, è stato bruttissimo vedere quelle immagini in televisione, la città violentata, devastata in quella maniera. Però sono stato male lo stesso quando ho visto Amato davanti al nostro Presidente della Repubblica, quando ho visto Formigoni passeggiare in prima fila davanti all'Expo. Sai che mi hanno fatto male come vedere una macchina bruciata, come vedere una banca saltata da quei... Raffaele, io posso essere dalla parte dei taxi, ti posso abbracciare fortissimo, perché fai un lavoro non del cazzo, ma un lavoro faticoso, un lavoro che spezza la schiena, eccetera, eccetera, e non è che guadagni tanto. Però, amico mio, non puoi paragonarmi una banca che va in fiamme, un negozio che va in fiamme, un'auto, seppur di grossa cilindrata, che va in fiamme con un politico che va all'inaugurazione dell'Expo. Perché non ho capito il paragone. Cioè, secondo te questi politici andrebbero bruciati loro? Non ho capito bene. No, per amor del cielo, io non voglio bruciare nessuno. Non mi mettere in bocca parole che non ho detto. Io ho detto solamente che sono stato male, quasi come aver visto Milano violentata, perché vedere le cose che sono sempre là, 30.000 euro al mese, non cambiano le cose, non cambiano i politici. E tu dici anche i politici hanno violentato Milano. Bravissimo, come altre città in Italia. Hanno violentato anche i politici, anche loro ci stanno violentando con la loro presenza, la loro arroganza. Sì, però Raffaele, io posso capire questa rabbia nei confronti della politica che non risolve mai nulla, eccetera, eccetera. Però sono due cose un po' distinte, perché altrimenti rischia veramente di dare ragione a quei quattro stronzi che erano in piazza. Che stronzi, però non sono. Perché chiamarli come ha fatto Renzi, sono quattro figli di papà, no, perché sono gente organizzata militarmente. Bravissimo, molto, bravissimo, molto organizzata. Bravissimo. Molto organizzata. Va bene. Io sono stato male aver visto Amato ancora in prima Amato c'entra con le banche messe a ferro e fuoco. Ma perché te la prendi con Amato per la storia delle pensioni? No, siccome ha fatto vedere dopo il servizio di Milano devastata, hanno fatto vedere il discorso del nostro presidente Mattarella all'inaugurazione. E tu hai visto Giuliano Amato, bravissimo, l'ex presidente del Consiglio, in prima fila. Hai detto andasse a fare in culo, volevi dire, bravissima, no? Ma che io di 50.000 euro al mese gli do, ma se cambiano la situazione, se ci migliorano la vita, vabbè. Ma io le do anche 100.000 al mese. Va bene, ho capito Raffaele, grazie. Dove andiamo? Ciao, Antonio, provincia di Lecce. Ciao Raffaele, grande. Antonio, dimmi. Ciao Cruciani, dunque io dico che Raffaele ha ragione. In che senso? Perché i politici ci violentano. Sì, però Antonio, basta con questa storia, perché siete veramente il massimo del benaltrismo. Ma che cosa c'entrano adesso i politici? Stiamo parlando di una cosa precisa. Che cosa c'entrano i politici? Le immagini devastanti che abbiamo visto. Vabbè. E dunque, ma questo allora giustifica quello che ha detto. No, ma lui infatti vuole giustificare. Ma questo giustifica forse, vuole giustificare. Allora, siamo pazzi. Antonio, dimmi, dai. Sento male. No, noi sentiamo benissimo. Guarda, Antonio, non ho capito. Allora tu giustifichi le persone che hanno distrutto le banche, che hanno distrutto le macchine, che hanno bruciato le macchine, le giustifichi? No, io non li giustifico, Come non giustifico quel coglione di Alfano che si doveva dimettere il giorno prima di diventare ministro. Vabbè, quello è a te non piace Alfano. Quello... Che cosa si No, non dimettere. È che non mi piace Alfano, a questo punto non mi piace più i politici che abbiamo. Vabbè, Antonio, però andiamo al sodo, dai, parliamo Andiamo al sodo. Allora io ho chiamato venerdì perché c'erano quelli due emeriti stronzi. Uno, il primo ha detto i cecchini da mettere sui tetti per sparare. Sì, l'altro il lanciafiamme. Sì. Cioè, cose assurde. Vabbè, Antonio, grazie. Ciao. Mario da Varese. Mario da Varese, mi hai rotto le scatole. Non arrivi al dunque, non arrivi al punto. Mario Varese, vai. Sì, buonasera, Cruciani. Buonasera, vai, vai. Niente, era solo un suggerimento se si poteva fare, visto che i bancomat, quando vengono devastati, hanno degli inchiostri indelebili. Perché in ordine pubblico non usare degli estintori con degli inchiostri indelebili e quindi da poter identificare successivamente gli autori per non incidere? Buona idea, l'ho sentito da qualche parte. Tutto quello che serve a identificare questi cialtroni, questi teppisti, questi malandrini, a dire poco, insomma, questi teppisti, direi, teppisti da strada, però organizzati militarmente, questi delinquenti, qualsiasi cosa va bene, anche la vernice, anche degli idranti con la vernice, va benissimo, va benissimo. Giuseppe da Piacenza. Ciao Davide. Io volevo dire, parlare dei fatti di Milano, e sai che David venerdì rompeva le palle questa storia di Seattle, io mi sono documentato. Ma ho visto anch'io delle scene di Seattle che certo non sono come quelle di Milano. Infatti, cioè, perché i poliziotti cosa facevano? Alla prima virgola fuori posto, mazzolavano, facevano un bel cerchio di amicizie in cui mazzolavano quello che... Nessun cerchio, diciamo, era... Esatto, poi dopo, se poi arrivava qualcun altro che aveva qualcosa da dire o qualcosa da processare... Arrivano nel cerchio dell'amicizia e mazzolavano pure quest'altro. Ma il problema vero è che in un paese civile, dopo che succedeva una cosa del genere con quella che è successa a Milano, la testa di Alfano sarebbe stata su un vassoio d'argento, in però, senso metaforico. Vi devo dire la cosa, anche l'ipocrisia di questa mobilitazione va benissimo, per carità, straordinaria, le persone che sono scese in piazza a pulire i vetri, a pulire le strade, benissimo, bellissimo. 20.000 persone. Devo dirti la verità, troppa attenzione su questa cosa qui. Beh, no, ma scherzi. È come la marcia dei 40.000, sì, quasi, però, come ci fu quella marcia dei 40.000 sì, a Torino. Ma troppa attenzione e non scusa, ma ragazzi, ma sono state distrutte delle cose, ma chi paga? E i milanesi, 20.000 persone sono scese in piazza per ripulirsi la città, è una cosa straordinaria. Troppa enfasi. Chi paga? Perché chi le cose paga belle i danni? Fanno... I danni chi li paga alla fine? Chi li paga? Verranno ripagate quelle persone? Allora, la regione ha stanziato un fondo, il governo darà dei soldi, certo che devono essere ripagati quelli che hanno subito un danno. Sì, ma il discorso poi è anche un altro, nel senso, in questa Italia ipocrita, no? Per esempio, questi qua a cui hanno danneggiato le macchine o hanno dato fuoco alle macchine, spesso, dato le macchine premium che erano in leasing con le assicurazioni fatte dalle banche. Quindi questi il giorno dopo c'è la macchina nuova e l'unico danno l'hanno fatta loro stessi. Vabbè, magari non erano tutte lì, sono state danneggiate 50 macchine, non 10, come dice Piano, deputato del PD, non 10, 50, non ci sono solo quelle bruciate, ci sono quelle danneggiate. Non capisco perché per una manifestazione io devo andare dal carrozziere il giorno dopo, per quattro stronzi che stanno per strada, devo andare il giorno dopo dal carrozziere, pagare uno specchietto, pagare un vetro, pagare una gomma, non ci voglio andare e voglio che un teppista sia identificato e preso dalla polizia. E li hanno presi! Mi incazzo, 11 non si sa bene per quale reato, solo 11. E mi incazzo quando vedo la polizia ferma lì, che per la tattica decisa dai geni che ci governano non vuole intervenire, non può intervenire, non ce l'ho con i poliziotti. Allora, c'è il giornale radio, però prima vi faccio ascoltare questa cosa di Brunetta, dell'amico Brunetta, perché quando si invoca il fascismo di Renzi, beh, allora dopo uno in teoria è autorizzato a sparare, è autorizzato a dire quello è il tiranno, bisogna ammazzarlo. Brunetta, ci sentiamo dopo, eh? No, signor Presidente del Consiglio, le sue parole di ieri a Bologna assomigliavano molto, troppo, a frasi che abbiamo sentito nel ventennio fascista. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Pubblicità. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Quando sto sul mio taxi mi sembra di stare al bar. Una cosa favolosa, guarda, sembra di stare al bar tutto il turno. Cala, cala. Ragazzi, sentendo oggi, anzi no, leggendo oggi i giornali, non sentendo la radio, perché ho sentito la radio e ho letto i giornali. No, normale, ho letto i giornali, normale, tutti normale. I giorni, cosa che faccio non tutti i giorni. Non penso che il nuovo direttore del Corriere della Sera blocchi il dicendo Cruciani, due punti, leggo il giornale e ascolto la radio. Fin qua no, non c'è ma che nulla c'entra di... una cosa che voglio dire, cioè io sì. Leggo i giornali ascoltando la radio. Vabbè, del mattino, i vari sì. programmi, cosa che dovresti fare anche tu. Sì, eh? Faccio quotidianamente. Ma sì, infatti sì. Lo sappiamo tutti. Allora, leggo a un certo punto sul quotidiano La Repubblica un'intervista. Io con De Luca per far rivivere la storia della DC. Signor De Mita, per far rivivere immagino, la DC. Signor De Mita. Ecco, l'autore di questa intervista, cioè l'intervistato, il signor Ciriaco De Mita, già, come dire, già segretario e presidente del Consiglio quando io avevo circa 18, 19, 20 anni. Io non ero forse neanche nato. Ecco, appunto. E poi soprattutto pluriassenteista al Parlamento Europeo. Non ti scordare di questa cosa qua. Perché no, è stato al Parlamento Europeo. Giocava a carte però. Sì, giocava a 3-7 nel suo ufficio. Sì. Presentava certo delle interrogazioni, tanto, delle cose così, delle però carte. Però è conosciuto soprattutto per essere un gioco grande... delle carte. Giocava a 3-7 ogni volta al Parlamento Europeo. Questo ci hanno raccontato in molti. Ci hanno raccontato, per carità. Comunque vuole far rivivere insieme a De Luca la storia della DC. Ma lasciamo perdere questa cosa incredibile. In Italia, come dire, non c'è mai fine al peggio, no? Non c'è mai fine al peggio. E poco tempo fa il signor De Mita, che adesso è alleato di De Luca, il quale è alleato di Renzi, disse di Renzi che stava, come dire, che l'Italia stava attraversando una deriva autoritaria. Tu capisci? Che non c'è più alcuna credibilità. Se il signor Ciriaco De Mita innanzitutto è ancora in ballo con una sua lista. A parte già non che c'è è credibilità. Sindaco di Nusco. Sì, di ma nuovo. Non c'è più credibilità perché non spariscono mai. Ma gli porta voti. Vabbè, comunque. Porta voti, c'è ancora qualcuno che vota De Mita. E poi, dopo aver parlato di deriva autoritaria di Renzi, adesso si allea sostanzialmente con Renzi. Incredibile. Voi potete capire che non c'è più nessun tipo di credibilità. Nessuno. Abbiamo qualche audio del signor De Mita su Renzi? L'abbiamo trovato? Non l'abbiamo trovato? C'è? Non c'è? Ditemi qualcosa, regia! Vai. Ho l'impressione che i problemi che questo governo Marenzi affronta sono problemi veri e sono accompagnati più dall'annuncio della soluzione che non dal percorso per risolverli. Ma questo che c'entra la deriva autoritaria? L'ha detto nella stessa occasione forse, Renzi. Cioè voi capite che diciamo, dove si arriva, vabbè. Giulio 800 24 00 24, dai. Innanzitutto complimenti per le scelte hard rock della musica che io ascolto e suono. Venendo ai fatti, allora è ora di finirla di parlare di infiltrati ogni volta che ci sono i black bloc in azione, perché allora mi dovrebbero spiegare come mai un poliziotto è stato preso a bastonate da alcuni di loro e uno addirittura stava per bruciare vivo per colpa di una bottiglia incendiaria. Poi i partiti che tutti prendono le distanze, però guarda caso i Black Bloc non manifestano mai contro Sinistra Libertà e Rifondazione Comunista, tanto che Sinistra Libertà ne ha candidati due, non dico di Black Bloc, ma di comunque dei movimenti forti. Luca Casarini e Daniele Farina, per dirne due. Ma che c'è, da Luca Casarini ha sempre fatto manifestazioni a volto scoperto, no, e anche sempre a volto scoperto, non ha mai adesso fa il pacifista, nel passato dichiarato pacifista, ma non ha mai fatto azioni violente. Però, Casarini, nessuna azione violenta, ha fatto azioni di disobbedienza civile, poi si può criticare e io non sarò qui a difenderlo. Infatti non lo accomunavo, però comunque l'area, diciamo, antagonista più è vicina a quei partiti, ecco, in qualche modo. Poi sono tranquilli e non tranquilli, però comunque dire Sel, mi fanno schifo queste persone, allora non candidare nessuno di quei movimenti che comunque occupano le case. Giulio, non ho capito dove vuoi arrivare. Andiamo al succo di questo intervento, vai. Ecco, voglio arrivare che comunque ci sono partiti che sono comunque vicini a questi movimenti. Sì, assolutamente. Ma poi no, questo non è vero, però scusa. Ci sono dei movimenti politici. E io non voto Sel e non sono certo di Sel, non sono qui a difendere. Ma non c'entra niente Sel coi Black Bloc che si mettono mazze, bastoni, molotov, tute nere, caschi in testa e devastano una città. Però non c'entra nulla. Ma non sono quelli. Di che cosa? Sono teppisti da stadio questi. Va bene, Giulio, Massimiliano, Bergamo, vai. Grazie. Sì. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Dimmi. Io avevo una soluzione abbastanza schifosa, però potrebbe andare bene per questi pazzi maniaci che disfano le città: mettere delle belle autobotti, degli camion spurghi e sparargli addosso la merda. Vedi come fanno a scappare. Sì, ma già un altro ascoltatore ha proposto questo, io sono assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Adottavano questo nel G8 qualche anno fa, mi sembra. E vedi che io sono assolutamente d'accordo, solo che qui hanno potuto agire indisturbati, hanno agito impunemente per una parte consistente del centro di Milano, perché poi bisogna sempre specificare. Ci sono quelli che ti dicono: beh, bisogna specificare, non hanno devastato la città. Ma sì, certo, è un'espressione. Io personalmente ero a 500 metri, stavo lavorando, perché lavoravo il primo maggio, per carità, va benissimo. Lavoravo il primo maggio ed ero a 500 metri e in quel posto lì era come stare in un altro pianeta, non succedeva assolutamente nulla. Sì, qualche camionetta della polizia che passava, insomma, niente di particolare, per cui non hanno devastato la città, è un'espressione, devastare la città, per dire. Hanno devastato quella via dove si sono rintanati. Sì, quelle vie, non troppo. Solo quelle vie, molte vie, molte vie della città, ed è già troppo. Anche solo una vetrina rotta, diceva un ex sindaco di New York, non va bene. Cristian Venezia. Ciao Giuseppe, ciao David. In riferimento alla devastazione appunto del primo maggio, mi sono chiesto una cosa guardando queste immagini agghiaccianti. Perché il nostro ministro dell'interno, che era a Milano all'Expo, bello, che regalava sorrisi, eccetera, una volta che riceveva le notizie che i nostri poliziotti avevano davanti delle vere e proprie squadre di guerriglia armate fino ai denti con bastoni, razzi, sanpietrini, eccetera, non abbia alzato il telefono e abbia detto: ragazzi, cambio degli ordini, basta fare contenimento, cercate di reagire senza farvi massacrare? Perché voglio dire, è stato un successo, ma è stata solo una fortuna che non sia che qualche poliziotto non abbia subito qualche conseguenza più grave, perché abbiamo visto tutti il povero poliziotto inviato, quello caduto nell'imboscata, viva Dio. Sì, quelle immagini drammatiche di quello caduto nell'imboscata. Io spero che i responsabili di quell'assalto vergognoso a quel poliziotto per terra e preso a bastonate da quattro delinquenti imbecilli, che poi non hanno il coraggio, capito? Non hanno il coraggio di affrontare a viso aperto la situazione. Cioè l'affrontano con i visi, con il viso nascosto, altro che poliziotti che si proteggono col casco e non hanno il numero di identificazione, cioè si proteggono il viso. È diverso, quello del numero di identificazione. No, ma è diverso. Legittimo. Dopodiché, contro questi qua che sono dei violenti, io non capisco perché lo Stato non può utilizzare la violenza. Questo che mi fa incazzare. Tu che cosa avresti fatto, Cristian? Non ho capito. Ma la violenza, certo, la forza, non la violenza. Esatto. No, io per carità, rispondere con una forza brutale, questo no. Però mi chiedo se sia possibile anche a livello legislativo, appunto, se il nostro ministro dell'interno, chi preposto, possa dare un controordine e dire: non andate più. Ma io non lo so, questo non entriamo nel dettaglio, io so solo una cosa, so solo che c'è chiaramente un reato, dei reati che vengono compiuti sotto gli occhi di tutti e non ci sono. Insomma, se io lancio una pietra, vado a Piazza Cadorna, so che non è la stessa cosa che c'è la manifestazione, in quel caso sono da solo. Se io vado a Corso Magenta, a Piazza Cadorna, in qualsiasi altro posto, e tiro un sasso contro una vetrina, viene una camionetta della polizia, una volante della polizia, dopo due secondi mi identificano e mi portano in gattabuia, o comunque mi portano al commissariato e mi denunciano, eccetera. Possibile mai che questo non possa accadere davanti a fatti conclamati? Giuseppe, provincia di Siena, anzi prima TG3, titoli. And now the headlines for News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. L'Italicum in legge con 334 voti a favore e 61 contrari. Il sì finale della Camera arriva a scrutinio segreto. La minoranza del Partito Democratico vota contro. Le opposizioni abbandonano l'aula. Forza Italia, legge incostituzionale. Maggioranza illegittima. 5 Stelle, Mattarella non firmi. Salvini, la legge riserverà sorprese. Renzi, impegno mantenuto. L'Italia ha bisogno di chi non dice sempre no. In mattinata l'intervento alla Borsa di Milano. Basta con un sistema finanziario basato sulle relazioni. Domani sindacati uniti per lo sciopero generale contro la riforma della scuola, non succedeva dal 2007, tre punti contestati, precari e potere dei presidi. Dopo la sentenza della consulta sulle pensioni, Bruxelles avverte l'Italia, eventuali nuove spese dovranno essere compensate, i conti comunque devono restare in equilibrio. Restano in carcere le cinque persone bloccate durante le devastazioni di cortei No Expo, intanto a Milano riaprono i negozi. Due uomini armati aprono il fuoco contro una mostra con corso di caricature su Maometto a Dallas, in Texas. La polizia uccide entrambi gli assalitori, uno di loro... Tu sei il re della radio. Se tu vai via di questa radio, io non sento più niente, chiudo. Hai capito, porco? Tu devi parlare di miappe, di fighe, di fighe. Bologna, vai. Buonasera, buonasera. Dimmi, dimmi Pietro, veloce, allora, che dobbiamo dare la borsa, dai. Allora, io condanno molto fortemente le scatti di violenza a Milano, però rispetto alla questione della devastazione di queste 50 macchine, delle vetrine, eccetera, eccetera, vorrei ricordare che ci sono una settantina di indagati degli organizzatori, dell'Expo, tra industriali, politici, ma ti devo dire una cosa, lo sai che non c'è, che hanno rubato, hanno sconfitto. Innanzitutto non c'è nessuna condanna definitiva. Innanzitutto non c'è nessuna condanna definitiva. Questa gente meriterebbe l'ergastolo. Sì, l'ergastolo. Adesso rivoluzioniamo il codice, l'ergastolo per le mazzette. Va bene, per me. Aspetta, Pietro, fermo là, che c'è la borsa. Dopo la borsa continuiamo su questo discorso. Pubblicità. La Zanzara. Zanzara 800240024. Pietro ci stava dicendo che i politici che hanno inquinato l'Expo, i politici corrotti, politici non solo corrotti dell'Expo, a parte che le corruzioni devono essere ancora verificate nei loro giudizi definitivi, ma sicuramente ci sono state, per carità, allora sono più colpevoli di quelli che hanno imbrattato Milano. Allora il collegamento tra le due cose non c'è. Sarò limitato io, ma non ce lo vedo. Ma non ce lo vede? Ah beh, non so, perché quanto costa la collettività tutto questo? Quanto costa? Ma quanto vuol dire costa? Quanto costa la collettività tutto questo? Ma sicuramente le tangenti e le corruzioni sono un costo. Ma si può essere contro le milioni, miliardi è costato. Ma la che cavolo c'entra? Ma si può essere contro le mazzette e dire che le macchine non vanno devastate? O è una cosa così folle da dire? Sto dicendo che c'è una ragione. Io dovevo essere lì a Milano, poi non ci sono andato, ero col No Expo. Ci doveva essere una ragione, che era quella di combattere in questo senso, una ragione che non è nutrire il pianeta, ma nutrire i profitti di qualcosa di assolutamente becero, che è l'Expo, che è assolutamente becero. Finanziato da McDonald's, Monsanto, sì, però, Nestlé. Sono multinazionali che devastano il pianeta. Ma lo va devasta, benissimo, no? Tu hai tutto il diritto di fare queste cose. E con questo ne sono stati fatti vedere neanche due minuti della manifestazione, più di 20.000 che manifestavano pacificamente. Ma cosa c'è? Stato concentrato politicamente sulla devastazione. A chi andava? Scusate. Sì, ti è mancata la gara. Ma è stato a vantaggio tutto questo? No, ma dei manifestanti? Sì, però Pietro, va benissimo in Italia. Beh, benissimo, non va. In Italia ci sono decine e decine di manifestazioni ogni giorno contro qualsiasi cosa. Va benissimo anche manifestare contro le multinazionali dell'Expo. Va benissimo tutto. Io ho detto, infatti, condanno questi atteggiamenti. Vabbè, ma questo qua che vuol dire? Non vuol dire niente. Ma tu hai detto un'altra cosa, che sono più colpevoli i politici che distruggono il pianeta dei ragazzi che vanno a imbrattare le cose. Le due... Io faccio una proporzione, certo. Ma non è il fatto. Ma facendo una proporzione, tu giustifichi facendo una proporzione, giustifichi. Quelli che imbrattano e si beccano 15 anni, va bene. Quelli che quelli che devastano il pianeta, quelli che rubano i soldi pubblici, dovrebbero avere l'ergastolo, l'esproprio dei loro capitali. Sto dicendo questo. Va bene, Pietro, okay. Grazie. Enzo, provincia di Roma, dai. Ciao ragazzi. Dunque, dimmi. Io credo che il difetto sia nel manico. Cioè? Wall Street e la City, Wall che Street sono in mano all'alta finanza ebraica. Ecco, l'alta finanza ebraica. Sì. Mancava questa roba. Mancava questo. Questo. Non è possibile, insomma. Non è possibile, no, infatti, lo dico io, non è possibile. Ma cosa c'è? Aspetta, fallo finire. Che a c'entra? Chi giova tutto questo? Da quando Reagan lanciò la globalizzazione? Abbiamo visto che è un continuo. L'Europa è unita, non si vuole l'Europa forte. Di cosa parla Reagan, la City? Non capisco nulla. Cosa c'entra Rothschild, caro mio, che comandano tutto il mondo. Ma che male ha fatto il signor Rothschild? Comandano. Vabbè, ma questo che c'entra? Ma cosa vuol dire? Ma cosa c'entra? Molto bene, Parenzo. Ma guarda che io... Enzo, cosa c'entra? Non ho capito cosa c'entra. Allora, chi è che comanda? Chi c'ha i soldi? Vabbè, allora? Dunque, chi è che ha i soldi? Il governo americano da chi è fatto? No, ma pensate veramente che era Bush a comandare? E chi sono? Gli ebrei? Chi comanda? Certamente. Io non ho niente contro gli ebrei. No, ma questo è pazzo, Ma si limitassero un po'. Ma si diceva negli anni 30 sta roba. Bravo, non è più di moda. Bravo, pazzo, ma che vuol dire bravo? La seconda guerra mondiale. E ma poi abbiamo capito quell'imbecille di Hitler che ha esagerato, che ha fatto delle cose orribili. Ha esagerato. Però aveva un minimo di cosa nei confronti del... Lei è una persona. Cioè, aspetta. Questo signore sta dicendo che il signor Hitler, in realtà, si poteva limitare non a farne fuori sei, ma forse a farne fuori due. Non come fuori nessuno. Io sto spiegando. Però ci aveva imbroccato sugli ebrei. Dici tu, no? Come il male del mondo. Lo vediamo, lo sappiamo, no? Sono un'intelligenza superiore, ma non al punto tale di far campare la gente. Vabbè, siamo al delirio. Enzo. Arrivederci, la veniamo a trovare all'ospedale. Arrivederci, verremo a trovarla. Allora, ha suscitato un po' di scalpore, caro David, il Black Bloc in carrozzina. Black Bloc in carrozzina, si chiama Bali Tutti, è un anarchico. Storico anarchico, va a tutte le manifestazioni col casco in carrozzina. Sì. Io ho qui sotto un numero di telefono, che fai? Che dici? Chiamiamolo. No, secondo me sì, vedrai che uno che risponde, uno che non lo so. Sì, che ciarla molto, che parla. Non saprei. Signor Bali Tutti, che poi è tornato con l'Eurostar. Però vabbè, lui ha detto in realtà con l'Eurostar, ha detto che ci sono delle carrozze per i disabili solamente con l'Eurostar, come doveva tornare. Questo non sì, su questo non è molto attaccabile. Comunque il disabile Black Bloc, disabile per carità, mica è una cosa negativa, Black Bloc è tornato con l'Eurostar con il casco che si aggirava lì tra la folla mentre i Black Bloc devastavano Milano, tra la folla dei devastatori. Amico dei devastatori. Regia, numero di telefono. Pronto? Vali Tutti? Sono Parenzo, la Zanzara, come sta? Bene, grazie. Senta, la disturbo, no? No, sono in giro con i cani. Vabbè, dopo la rivoluzione dell'altro giorno. No, che rivoluzione, magari fosse stata la rivoluzione. Senta, volevo capire questo, lei è stato minacciato, no? Sì. Dalla polizia? Non so se non mi ricordo se era un poliziotto carabinieri, insomma in uniforme. Non mi hanno fatto niente, mi hanno ignorato. Poi sono sopraggiunti a dietro due in borghese, mi hanno lievemente malmenato, nel senso qualche colpo in testa, qualche spinta, qualche colpo alla carrozzina. Niente, se volevano essere violenti lo potevano essere molto di più, ma mi si sono avvicinati e mi hanno detto testualmente: bastardo, noi ti conosciamo, ti facciamo saltare le cervella. verremo a casa tua. Vabbè, salve vali tutti, sono Cruciani. Volevo chiederti, ma perché vai col casco nelle manifestazioni? Questo è giusto. L'ho trovato lì per terra, che anche gli oggetti che lanciano gli altri può arrivare ugualmente in testa a te. Sì, no, certo, ma tu hai lanciato qualche oggetto, Lello? Lello, hai lanciato. Come faccio a lanciare? Vabbè, ma anche in carrozzina si possono lanciare oggetti. Non posso lanciarli perché non ho la forza necessaria nelle braccia. Col braccio un po' più decente guido la carrozzina, e con l'altro non ho la forza necessaria. Ecco. Li lancerei volentieri, non sono un ipocrita. Ah, tu ti una vetrina la spaccheresti? Ah, ma sicuramente, se fossi del posto giusto, sì. Tipo, quali sono le vetrine che possono essere spaccate? Secondo i simboli della ricchezza e del potere, ma anche l'esempio più tipico, ma ci possono essere anche altre situazioni e altri posti, però l'importante è che siano simboli della ricchezza e del potere. E una macchina la bruceresti? Cioè, quando hai visto quelle macchine bruciare, cosa hai provato? Quando ho visto le macchine bruciare, se bruciano delle macchine di lusso mi va anche bene. Sì, bruciano una macchina, diciamo, fra virgolette, di un poveretto, mi dispiace, però sono effetti, sono voi chiamate effetti collaterali. Sì. Quando voi, non dico voi, il potere effetti collaterali quando le bombe ammazzano donne, bambini. Sì. Gli effetti collaterali che possono succedere a noi sono che si brucia per sbaglio una macchina non propriamente ricca. Sì. A parte che è difficile distinguere, cioè, che ne so, bruciare una Fiat Punto non va bene, invece bruciare una BMW come è successo va bene. Questo è il concetto? Ma il concetto è che bisogna colpire i simboli della ricchezza e del potere. Scusa, ma non è puro teppismo secondo te questa roba qua? Distruggere le macchine, i negozi, per esempio. Ecco, allora, senti, se io la sera esco di casa e mi metto in testa e distruggo le macchine, è un'azione che qualcuno potrebbe anche chiamare teppismo. Invece? Potrebbe, poi ci sarebbe da discutere, perché la disperazione di un proletario che se la prende con le cose dei ricchi, anche individualmente, anche fuori dalla manifestazione, può essere ammessa. Potremmo farne una lunga discussione. E invece in una manifestazione? Ma io faccio una manifestazione contro l'Expo, cioè faccio una manifestazione contro un'ostentazione di ipocrisia, come non se ne sono viste altre al mondo, dove quelli che hanno creato la fame nel mondo, i ricchi, vogliono addirittura gestirsi il problema della fame nel mondo, come stanno facendo con tante cose, come fanno le guerre e poi vogliono gestirsi la ricostruzione, cioè è una prassi costante, allora è diverso. Io non sto rompendo la macchina, sto dicendo non ne possiamo più che il potere sia in mano. Beh, ma però il proprietario della macchina ha dei problemi, poi si deve ricomprare la macchina, deve spendere dei soldi. Sì, è vero, ma pensa a quelli che vengono uccisi nel Mediterraneo. Chi non combatte contro il potere è responsabile, nel senso che è passivo ed è corresponsabile, in quanto questi agiscono a nome nostro. Chi ha una BMW, secondo te, chi ha una BMW è corresponsabile del potere? No, in linea di massima, chi non si ribella, chi accetta che il potere faccia anche a nome suo una serie di porcherie inaudite che sta facendo, è corresponsabile. E dunque se bruciano la macchina va bene. Ma può darsi che magari quando la macchina è bruciata si ponga qualche domanda, si chieda ma cosa succede? No, quello è solo incazzato se gli hanno bruciato la macchina. Ti assicuro, amico mio, quello è solo incazzato come una bestia. Gli fumano come fumavano le vetrine di Milano a quello quando torna a casa e vede la sua macchina, per carità, da 45.000 euro. Mi risulta che hanno bruciato anche un posto dove si vende la cioccolata, una famosa... Guarda, io ti posso dire quelli che sono gli obiettivi logici di un certo tipo. Cioè bruciare una banca, distruggere una banca è giusto. Se poi per sbaglio qualcuno fa qualche altra cosa può succedere, ma ti ripeto, nessuno, se avessero voluto distruggere sistematicamente i piccoli negozi o le macchine utilitarie l'avrebbero fatto. Ma tu prendi una pensione? Prendo una pensione di invalidità, sì. Qualcuno dice che siccome Gasparri in particolare, che siccome tu hai aiutato il corteo ad essere protetto perché non osavano fare la carica perché c'eri tu, ti usavano un po' come ti usavano per frenare la polizia, ti dovrebbero togliere la pensione. Ecco, digli a Gasparri che tolga le pensioni e gli appannaggi a tutti i parlamentari che sono pluricondannati pregiudicati. Tolga quella prima e poi forse potrai in qualche modo pensare di rompere le palle agli altri. Scusa, ma chi va? Un po' e non rompe i coglioni. Meriterebbe anche lui una bella bastonata. Ma noi non bastoniamo nessuno. Beh, insomma, adesso questo non bastonate nessuno. Scusa, quei gentili signori vestiti di nero con la maschera antigas e con i bastoni in mano, secondo Lello Balitutti, cosa sono? Ma secondo Lello Balitutti, questi gentili signori che io non conosco. No, per carità. No, dei quali non so niente. No, beh, certo. Dei quali non so niente. Certo. Da quello che io ho capito, da quello che ho visto, da quello che mi hanno detto e da quello che ho capito, hanno difeso una ragazza che veniva violentemente strattonata da un poliziotto per liberarla. No, non risulta, caro Valitutti. Non risulta quello. I signori vestiti in nero hanno deliberatamente scelto di distruggere mezza città. Non ho mica detto che tutto quello che è successo è stato fatto per difesa. È stato fatto per offesa, quello che è successo, per manifestare uno sdegno completo, totale, radicale contro le ingiustizie dominanti. E dunque li giustifichi? Contro la violenza dominante che c'è. Vabbè, li giustifichi? Non si può negare che non si parta. Non li giustifico, li approvo. Li approvi, bene, amico mio. Li approvi, bene. Ma stai a ma è onesto almeno. Io non sono un ipocrita. No, ma infatti si vede, si sente, anzi. Non lo sono per niente. Io stessi bene sarei insieme a loro, perché non ritengo giusto farlo, no? Un poliziotto, secondo te, che cos'è? Guarda, secondo me un poliziotto non è il bersaglio che io preferisco, perché non viene messo davanti per difendere gli altri. Io lo dico tante volte, l'ho detto sempre, io preferirei di gran lunga che in piazza ci fossero certi politici, certi finanzieri, certi padroni delle multinazionali. Quelli sarebbero da impiccare in piazza? Guarda, adesso ti dico veramente, questo, se quelli fossero in piazza, io non gli farei niente, gli affiderei ai parenti di quelli che sono morti nel Mediterraneo, affiderei ai parenti di quelli che sono morti con le bombe che li fanno tanto speculare, sì. Li affiderei ai parenti di quelli che muoiono in ospedale perché hanno fatto tagli alla sanità vergognosa, ai parenti di quelli che sono buttate fuori dalla casa, lascerei a loro di fare quello che ritengono opportuno. Secondo te la violenza è necessaria? Ma secondo me noi non siamo mai violenti. Vabbè, secondo me perché la violenza che arriva per combattere la violenza che c'è non è violenza. Cioè la violenza si ha quando si interrompe uno stato di pace. Noi viviamo in un mondo sommamente violento e per non essere complici di questa violenza usiamo la nostra violenza, ma per finire con la violenza, per finire con le ingiustizie, per finire con le porcherie. Questo è il nostro modo di agire. Ho capito, non siamo violenti, ci difendiamo da una violenza che c'è. Ma tu, secondo te, Palazzo Chigi, che cosa andrebbe fatto con Palazzo Chigi? Assalito? Palazzo Chigi? Sì. Ma io non tratto con i politici, certo che se al posto di Palazzo Chigi ci fosse un bel mucchio di macerie sulla quale costruire una pista da ballo per ballare in pace sarei contento. Sarebbe meglio. E poi come si governa però, amico mio? Cioè, come si governa? Io sono anarchico. Lui è anarchico. Ma sì, che cazzo. Ciao Lello, ti abbraccio. Non voglio potere. A Lello! Ciao Lello. Ciao caro. Ormai è tutto degradato. Ormai. Allora, il signor Balitutti, distruggerebbe Palazzo Chigi, d'altra parte è anarchico, no? La cosa che non posso sopportare è la giustificazione della violenza perché c'è un'altra violenza superiore, capito? Siccome c'è una violenza superiore, ha detto che... Ma c'è un'altra violenza che non posso accettare, lotta di classe contro potere. Mamma mia, i tuoi amici 99 possono questi. Allora, Patrizio da Roma, vai, Patrizio. Pronto? Dimmi, Patrizio, dimmi. Grande Parenzo, grande Cruciani e Forza Lazio innanzitutto. Dai, non me ne frega niente di queste cazzate. Vai, dimmi, parlami di cose importanti. Io giustifico i manifestanti, li giustifico, sì. Condanno quella vecchia che dal balcone urlava vergogna. Ma vergogna a chi? È il mio idolo. Aspetta, a quei ragazzi che stavano manifestando per il loro futuro e per veramente ma quale per la loro futuro? Aspetta, ma quale loro futuro? 70, negli anni 70 era giusto cazzo manifestare, vero? Negli anni 70 era giusto. Ma chi ha detto magari che era vecchia, dipende manifestare magari, come? Magari come, Parenzo? Non c'erano gli scontri in piazza? Cioè il terrorismo non è che manifestava, il terrorismo, il terrorismo uccideva. Che c'entra? Non ha parlato di terrorismo. Perché quello è terrorismo, però comunque, detto questo, magari la vecchia negli anni 70 era una sessantottina con due palle così sotto, capito? Che era la prima. Vabbè, ma questo che c'entra? Ma che c'entra il 68 con la con la bruciare delle macchine? Ma non c'entra niente, sta facendo sta parlando con la vecchia. Per interposta persona, si rivolge alla vecchia poverina, la signora era incazzata perché vedeva le macchine bruciare, perché cosa c'entra? Sotto casa sua, perché se bruciavano a 100 a un chilometro di distanza. Beh, allora anche se fosse così, c'è il diritto, c'è il diritto di proteggere le proprie cose, di vedere protette le proprie cose. Ci mancherebbe. Qual è il problema? C'è il diritto borghese, il diritto se vuoi borghese è assolutamente come dire, no? Diritto privato, diritto di proteggere anche i miei soldi, anche le mie tasse, anche la mia libertà di avere dei cazzo di amministratori che siano eticamente, perché qui parliamo di etica, non parliamo che la gente senti, non deve prendere io non ho capito di che stai parlando. Hanno sfasciato vetrine, distrutto macchine, provocato un sacco di danni. Dovevano andare semplicemente a fare in culo perché non sono stati arrestati, altrimenti devono pagare. Voglio vedere BMW da 150.000 euro. E qual è il problema? Perché uno non si può comprare la BMW? Perché non ho capito, non si può comprare la BMW da 150.000? Magari è un evasore. E chi te l'ha detto? Qualcuno che se l'è comprata, magari è qualcuno che se l'è comprata. Ecco quest'altro cretino, ecco il cretino. Ma per questo semmai c'è la legge che punirà l'evasore. Non è che arriva Zorro con la maschera nera, arriva Zorro, Robin Hood. A Robin Hood dei poveri, a Robin Hood. A Robin Hood. Fermi là. Il problema è molto semplice. Poi, tra l'altro, cosa c'entra, Patrizio? Scusa, cosa c'entra? Spiegami un attimo. Cosa diavolo c'entra la BMW e l'evasione fiscale? Scusa, spiegami. Allora, a parte che ormai in Italia non te fidi più del vicino, quindi per me chi c'ha la BMW, ma uno ha tutto il diritto di avere la propria macchina e di non vederla devastata. I venditori onesti in Italia sono pochi. Vabbè, allora tu dici che per principio uno che ha la BMW da 150.000 euro, a parte che tutto da verificare che costa 150.000 euro, nel dubbio gli do fuoco. Nel dubbio, siccome è l'evasore fiscale, gli do fuoco. Ma durante una manifestazione ci può stare, ci può stare. Può capitare che una macchina vattene a casa. Marco da Reggio Emilia, Marco da Reggio Emilia. Buonasera. Dimmi Marco, dimmi. No, a mio avviso manca nelle vostre analisi una differenziazione tra un piano legale, che è indiscutibile che va condannato la violenza da qualunque parte provenga, e un piano sociologico, sul quale invece occorre riflettere sul perché l'uomo si abbandona a una violenza così indiscriminata e apparentemente priva di significato. No, non ho capito Marco, qui non siamo al simposio di filosofia sulla violenza, sono le 19.55, o mi dici un concetto, come dire, compiuto e sensato per la zanzara, oppure vai a qualsiasi convegno sulla violenza, le ragioni psicologiche della violenza nella società. Cosa sì, però la sua semplificazione, il suo non è la semplificazione, è una trasmissione radiofonica, non è la cosa, non è una seduta psichiatrica. D'accordo, mi ascolti un attimo. Dimmi. Il suo modo di semplificare alimenta involontariamente la violenza stessa, perché se lei risponde con altre... Vedere che alla fine di tutto è colpa mia. Alla fine di tutto è colpa mia. Alimenta, io alimento la violenza, ma dai. No, alimenta lo scontro. Ma non ho capito, perché dovremmo comprendere questa violenza? Spiegami Marco. Perché in Italia c'è il 40% di giovani disoccupati. Fermo lì che c'è la pubblicità. Vi voglio benissimo, viva la topa! Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La zanzara. Mandovi di Aparenzo, Senni, Aparenzo, mando cazzo video. Facciamo risentire un attimo, Fazio, Fazio che minimizza la devastazione, non è che dà ragione ai Black Bloc, però dice, bah, devastazione, non è che si possa proprio parlare di devastazione, a mio parere è una cosa abbastanza grave, perché uno non ci si rende conto che anche solo una vetrina sporcata provoca danni, certo, e può essere definita devastazione. Alcuni mi hanno detto: beh, ma vai a vedere nel vocabolario la parola devastazione, ma che vuol dire? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Devastazione è un cittadino che è costretto a scendere in piazza per colpa di quattro delinquenti. Questo è il punto, questa è la devastazione. Fazio. Per fortuna le forze dell'ordine hanno lavorato benissimo, è stato tutto circoscritto in una zona molto limitata, insomma, quindi alcuni hanno scritto devastazione adesso, quindi, insomma, è stato tutto per fortuna grazie alla lucidità delle forze dell'ordine molto, molto misurato e circoscritto, anche se ovviamente le immagini erano orrende. Non erano solo orrende le immagini, eh. Poi abbiamo Fedez che è stato attaccato per quello che ha scritto su Twitter, il quale dice che molti intellettuali, giornalisti e politici hanno cercato un capro espiatorio per lo scempio di Milano. Adesso addirittura Fedez si sente un po' troppo importante, Fedez, cioè si sente, come dire, una specie di santone, guru. Di guru. Beh, nei fatti lo è, però. Bah. Perché come ricordavano dietro il vetro, cioè Fedez, questi qui espostero in realtà milioni di persone. Ma io non so se esposto, non credo. Hanno un grande, tra virgolette, seguito sugli adolescenti. E se uno di questi dice delle cose, beh, non dico che qualcuno segue quel che dice Fedez, però hanno un ruolo pubblico. Indubbiamente sì, certo, hanno un ruolo pubblico. Il capro espiatorio. Sentiamo il capro espiatorio. Sono così bravi nel fare il loro lavoro di analisi politica che l'unica cosa che sono riusciti a fare è stata quella di creare e cercare un capro espiatorio per quello che è stato lo scempio del 1° maggio a Milano. E mezzi ciechi come sono riusciti a trovare anche un capro espiatorio poco credibile, direi. Ma possiamo far ascoltare quello che ci ha detto prima Valli Tutti su Gasparri? Cioè Valli Tutti. Valli Tutti? Ce l'abbiamo? Valli Tutti è l'anarchico 68enne. Che era in mezzo agli scontri, immortalato in queste celebri foto con il casco in carrozzina e che si aggirava tra le mazze, bastoni e tutte nere. Che da noi pochi istanti fa ha giustificato le violenze, come hai detto, no? E anzi ha detto: io distruggerei Palazzo Chigi, lo ridurrei in cenere. Poi, se potessi, non ho la forza delle mani perché sono disabile, ma se potessi l'avrei lanciata anch'io. Spaccherei la vetrina di una banca anch'io, spaccherei la vetrina di una banca, le macchine di lusso bisogna bruciarle. Un simpatico signore. Alcuni ci dicono: l'avete trattato con troppa gentilezza, ma noi volevamo che lui sfogasse tutta la sua, come dire, no? Che vuoi fargli? Che tirasse fuori tutte le sue minchiate, a nostro parere, minchiate. Assolutamente. Valli Tutti contro Gasparri, dai. Qualcuno dice che siccome Gasparri in particolare, che siccome tu hai aiutato il corteo ad essere protetto perché non osavano fare la carica perché c'eri tu, ti usavano un po' come ti usavano per frenare la polizia, ti dovrebbero togliere la pensione. Ecco, dille a Gasparri che tolga le pensioni e gli appannaggi a tutti i parlamentari che sono pluricondannati e pregiudicati. Tolga quella prima e poi forse potrà in qualche modo pensare di rompere le palle agli altri. Scusa, ma chi va? Si vergogni un po' e non rompe i coglioni. Si vergogni un po' e non rompe i coglioni. Poi c'è anche Saviano. Ma la cosa incredibile di Saviano è che io non riesco a capire questa cosa qui. È la linea di Alfano. Le macchine bruciate, le vetrine rotte sono un costo necessario. Io vi devo dire la verità, amici della radio, popolo della radio, io di fronte a questa cosa non mi voglio arrendere. C'è la questione della realpolitik, cioè il contenimento è servito. Beh, a certo, non si chiama contenimento. Un momento, un minuto e 40 ragazzi, secondi. Non mi arrendo di fronte a questo. Meglio una macchina scassata che una testa spaccata. Ma a parte che le teste spaccate ci sono state, ma dei poliziotti. Purtroppo. Ma dei poliziotti. Purtroppo, infatti. No, purtroppo. Non è che i 12. Lo dicesse Saviano. Saviano dice quel che vuole. I 12 poliziotti feriti sono un effetto collaterale gravissimo. E allora non è vero che non è di quello che è successo. Non c'è stato sangue. Dopodiché, in queste situazioni può capitare di tutto. Ma sentiamo Saviano. C'è stato, certo, macchine bruciate, vetrine rotte, ma è un costo terribile, pesante, ma necessario per mostrare come la violenza, la parte violenta, sia criminale e svuotata anche di ogni significato politico. Ah no, ho capito cosa intende. No, non ho capito una mazza, devo dirti la verità. Va bene, 800 24 00 24 è con noi Maurizio Gasparri, buonasera. Buonasera a voi, avete fatto una galleria degli orrori. Saviano, Fazio, Valli Tutti, Fedele. E Gasparri ora. Tanto Pacciani perché è morto. No, e ora chiudiamo con Gasparri ora. Morto, no? In questo climax chiudiamo con Gasparri. Capito? Allora, intanto io sono favorevole a una legge, sono adatti di arbitrio che levi le pensioni ai parlamentari condannati. Ma adesso non è che risponde a Bari tutto. Anche ai magistrati, ai direttori generali dei ministeri che sono stati condannati, perché pure quelli non devono avere la pensione. Dopodiché, a Bari tutti, io ho proposto di togliere la pensione. Siccome l'ho sentito prima alla radio, non solo la frase che mi avete fatto disabile, sentire, però. L'ho sentito tutto quello che ha detto. Sì, sì. Va tolta la pensione a Bari tutti per la disabilità motoria, gli va data per la disabilità mentale, perché è completamente pazzo e quindi una persona incapace di intendere e di volere, quindi di provvedere a se stesso, deve essere assistita. Attenzione da che potrebbe prendere più soldi, non lo so, vabbè, Maurizio, potrebbe prendere più soldi come disabile mentale. Se uno è un disabile mentale c'ha diritto a un'assistenza. Purtroppo invece è lucido, purtroppo no, è lucido. Ma guardi, lui si fa usare da questi e usa questa sua presenza appunto per frenare la polizia, arriva con la carrozzella in tutte le manifestazioni peggiori, non era la prima volta. Comunque quello che ha detto è gravissimo, quindi o è un disabile mentale oppure va punito, perché non è che se uno è disabile e sta sulla carrozzella alla radio può dire distruggiamo il governo, che poi gli dà la pensione, la polizia fa schifo, i black bloc in fondo c'hanno ragione, rompere le macchine dei ricchi, poi chi l'ha detto che sono ricchi, è una cosa giusta. Quindi quello che lui ha detto, allora io mi chiedo, no, permesso che la pensione gli potrebbe essere data per la disabilità mentale, sì, ma se invece non fosse disabile mentale, un disabile motorio, poveretto, sì, quindi sì, per questo ha diritto a tutta la comprensione. Questo gli dà diritto di delirare alla radio, di andare in manifestazione. Il casco l'ha trovato per terra. Sì, ma dice di averlo trovato per terra. Per cui Fedez è un coniglio che ha istigato la violenza prima e poi quando è successo, no, però, il casino. Però Fedez ha detto una cosa, non ha detto che ha detto sì, che imbrattare ci si indigna di più per una vetrina imbrattata piuttosto che per le infiltrazioni della mafia. Comunque mi lasci, Fedez è un coniglio, Fazio è un ipocrita, Bari tutti è un caso che avete trasmesso le sue parole, voglio dire, chi ha sentito può giudicare. Il fatto che sia disabile non è che deve consentire, perché tutti i disabili italiani che stanno sulla sedia a rotelle volessero fomentare violenze, giustificarle o andare addirittura in piazza, perché la polizia ovviamente di fronte al disabile ha delle remore a intervenire, insomma saremmo in un mondo di folli. Saliamo poi, io vorrei che si facesse fare la scorta che ha nutritissima dei 12 poliziotti feriti, quelli che per lui sono un prezzo sociale giusto, no? Allora anche la camorra è una forma di espressione, si potrebbe dire paradossalmente, che fa vedere il male di alcune zone, così quando il male si conosce lo si circoscrive. Ma che cazzo di ragionamento è? Si potrebbe fare questo ragionamento? No, ma non ha detto questo, Gasparri. Ha detto delle cose deliranti, anche Saviano, mi lasci dire. No, quindi, no, ma Saviano non ha detto questo, però stai travisando. Ha detto che questa criminale fa vedere che poi ci sono quelli che sono cattivi isolati dai buoni. No, ha fatto un giustificazionismo strano. Ma quale giustificazionismo? No, ha detto semplicemente che ci ha fatto conoscere anche l'orrore della violenza, sì, questa roba, cioè, perché fa conoscere l'orrore della violenza. Ma non l'ha detto in positivo, ma non l'ha detto, era più un'analisi sociologica, se vuoi, poi, che non la, che guarda, se poi mi fa specie l'elogio alla polizia fatto da Saviano e da altri, o da Fazio, quando la polizia riceve direttive. Io oggi ho parlato ancora una volta con quelli del reparto mobile, sono indignati, hanno avuto la direttiva di non arrestare. Le faccio un esempio: 5 arrestati a Milano con quello che è successo. A Roma al concerto del 1° maggio hanno arrestato 90 persone. Lei mi dirà non ci sono stati incidenti. Difatti hanno arrestato borseggiatori attratti da un evento ovviamente affollato e poi hanno arrestato spacciatori di droga, perché si vede che forse il pubblico del 1° maggio preferisce la droga all'aranciata Fanta. Allora perché 90 arrestati a Roma senza incidenti e solo 5 arrestati a Milano? Il giudice che ha rilasciato quelli che erano dei writer, secondo lui, i tedeschi, Milano, francesi, si è fatto raccontare, ho letto sui giornali, che erano andati a vedere questi signori una partita, credo, di basket a Bologna. No, ma quello poi, è incredibile. Voi vi ricordate il film L'audace colpo dei soliti ignoti? Sì. Per fare la partita a Milano, Gasman si inventa l'alibi che erano andati a vedere la partita della Roma a San Siro. Se lo ricordo, abbiamo un coglione, abbiamo un coglione nella Italia nostra, che non so chi sia, se un cittadino, un passante, un magistrato, chi, no, non un, so magistrato, chi un magistrato, non lo so chi sia, che crede a un racconto che si vede in un film degli anni 50 di Gasman. Se lo ricorda lei quel film? Sì, come sono d'accordo. No, ma io posso leggere anche la cosa incredibile, posso leggere alcuni stralci. Quindi quel magistrato è un coglione, secondo no, Gasparri, qualche cittadino che crede a questo, io non so se è un magistrato. forse era riferito a Parenzo, non lo so. No, questa volta no, sentite, caro Gasparri. No, le chiedo scusa. Sentite che è incredibile. No, ma sentite che è incredibile. Tre tedeschi liberati. Senti, questi fermati a bordo di un furgone nel corso del controllo sono stati trovati in possesso di numerose bombolette di vernice spray e tre passamontagna, nonché di una bomboletta di spray urticante. Anche per questi sono stati predisposti provvedimenti di allontanamento con esecuzione immediata sulla convalida, dei quali il giudice ordinario si è riservato di decidere nella mattinata del 1° maggio, quando, sciogliendo la riserva, non ha convalidato. E questo è successo anche con altri, ad alcuni hanno trovato... Hanno detto che il passamontagna serviva quando facevano i writer, respirare, come dire, la nebulizzazione della vernice, così si curavano la salute. Poi gli hanno raccontato la storia di Gassman del film L'audace colpo dei soliti ignoti. Ma secondo lei Fedez che cos'è Fedez? Coniglio, perché prima ha aizzato e poi è scappato con le sue Ma non ha aizzato, ha detto che la vernice, la mafia, la gente si indigna Coniglio più per la vernice. Dire, Coniglio è un anagramma. No, però il problema fondamentale che ho detto anche a Fedez, con molta tranquillità la settimana scorsa. Fedez, la no, l'ho detto via radio. No, perché... ecco, okay. No, ci parlo, ma no, ho detto a Fedez, amico mio, tu non puoi dire che chi va a fare lo spray, a parte sono due cose che non c'entrano una mazza, questo cioè la mafia e chi imbratta le vetrine, sono due distinti a e separati. Ma arrestare i mafiosi e quelli che hanno rubato sull'Expo, a me l'Expo manco mi piace, a mica vado a sfasciare macchine. Come non le piace l'Expo, scusa? No, non gli piace l'Expo. È una cosa che sembra la fiera del mobile e Masterchef, con Farinetti che vende la birra e i panini a prezzi da incredibili. Qui a me non piace, a mica lei rosica solo perché non era lì all'inaugurazione, no, Bobba Magna, altro che mi hanno invitato, non sono andato. Ma io perché? Sono non ho capito. Ma perché? È una cosa meravigliosa Expo, un viaggio tra i sapori del mondo, i gusti. Ma che sapori del mondo? È una roba degli assaggini, una roba così. Degli assaggini, una fiera mondiale, arrivano i cinesi, un sacco di soldi per l'Italia. Ma io sono d'accordo con Gasparri su questo. E poi l'ha voluto la Moratti, cioè Gasparri non si ricorda che l'ha voluto la Moratti, che è stata una sua, un ministro del suo governo. Expo scettici senza fare la guerra civile. Per quanto riguarda Palisutti, io spero che abbia dei parenti, dei controlli. Adesso io mi informerò, perché il romano voglio informarmi della pensione della... ma fin di bene, voglio parlare con i parenti di Palisutti, perché non si manda un disabile in quei contesti pericolosi. E se lo travolgevano i black bloc, se un black bloc lo feriva e davano la colpa alla polizia, ma non mi pare, è amico dei black bloc, lo portano lì apposta, dai, ma non diciamo cazzate, dai. Quando uno tira una molotov, mica, ma non ho capito perché te la sei presa con Costanzo e De Filippi che invitano Fedez. Non ho capito questo. Perché Mediaset, che io sono un uomo libero e posso criticare, sta offrendo una tribuna in vari programmi da Costanzo ed altri a questo che è un personaggio che dà messaggi sbagliati e negativi. Non è manco un cantante, perché poi beh, come no? Parla, come? È un rapper, non canta. Ma i rapper mica sono cantanti. Per fortuna non... o Baglioni, no? Vabbè, per fortuna non decide Gasparri chi va in televisione e chi no, perché e difatti Biasimo che gli diano una tribuna, dopodiché come vedete non posso fare assolutamente magari nulla, fa ascolti. Fa tanti, ma anche Pacciani avrebbe fatto ascolti se l'avessero intervistato. Ma che c'entra Pacciani con Fedez, scusa, è così, faccio un esempio, anche ma che cazzo di esempio mandato, con tutto il rispetto, scusi, hanno mandato anche lei in televisione a un certo punto. Beh, adesso la situazione si aggrava ancora c'è in televisione, perché ancora ci sono, peraltro lo so che fare. Abbiamo superato anche no, voglio dire, ai tempi quando Mediaset supererà anche questo, come lei ebbe a dire una volta su Rai 3. No, quindi. Però scusa, Maurizio, esatto. Ecco appunto, ma voglio dire, ma ai tempi di Berlusconi, quando Berlusconi era Berlusconi, questa cosa di Fedez ospite non sarebbe avvenuta. No, diciamo. Certo. No, guarda, Berlusconi si vanta ed ha ragione di non comandare nulla sulle sue televisioni. Beh, adesso quindi nulla. Sicuramente non esageriamo. Sì, sì, le assicuro. E beh, questo lo dimostra, insomma, lì ognuno fa quello che vuole in base a presunti. Ma addirittura hai detto servi, addirittura Costanzo e De Filippi servi, non so che cos'è che hai detto. Serbi dalla Serbia. Serbi. Ti è partita la mano, dai, ti è partito il tweet. E Fazio? Fazio, ho detto, è un ipocrita, Fazio. Perché Fazio è un uomo di salotti, un uomo col libro, un uomo colto, è uno del politicamente corretto, per cui Fazio è più furbetto, è più insidioso, perché, come dire, è con i guanti bianchi, insomma, no? Però ha detto delle cose totalmente inaccettabili. Poi, siccome ha avuto qualche tweet, in questo caso credo che siano scappati giustamente a Cruciani, mi pare che durante la trasmissione gliel'avranno segnalati, ha un po' frenato. Però, sì, ha spiegato, Fazio ha fatto. È il campione dell'ipocrisia del politicamente corretto, che poi no, perché voglio dire dire una cosa a Fazio, molto molto chiara. Io, a me non me ne frega niente di quello che fa in televisione, guardo poco la televisione in generale, però quando uno dice beh, devastazione, di fronte a cittadini, cittadini come lui che hanno visto la macchina distrutta, le vetrine sfondate, la città paralizzata, anche il diritto di farsi una minchia di passeggiata il primo maggio a Milano è stato devastato, tra virgolette, anche questo sacrosanto diritto di non vedere la città occupata da centinaia di delinquenti armati, beh, insomma, minimizzare sulla devastazione non è bello, eh. Capisco non che Fazio non gliene frega nulla della macchina. Lo fa con i guanti bianchi, ecco, mentre gli altri sono più brutali, è un vali tutti con la laurea. Un vali tutti con la laurea addirittura. No, vabbè. Allora io voglio dire una cosa, è un complimento, no? Perché io voglio un'ultima cosa, Maurizio, un'ultima cosa, ma se, da tifoso della Roma sei contento che se la vince la Juventus con Real Madrid o no? Ma sì, perché appunto alla fine è la squadra italiana. Ah, cioè fai il tifo anche tu per la Juventus. Per quanto ci possa un po' rodere, ma io sono contento che del gol di Florenzi, però, perché mi ricordo. Questa volta non è andato dalla nonna, però. Io, difatti, gli ho scritto un bel tweet, core de nonna, perché lui quell'episodio della nonna, e ho visto l'abbraccio tra Totti e Florenzi, che era quasi ieri lo investiva come l'erede, avessimo trovato l'erede di Totti. Che, insomma, una mia amica mi ha scritto: a me Fedez fa sesso. Ecco, contenta scritto... lei. Insomma, a me Fedez molto... fa. Fa sesso. È Gasparri che dice di Gasparri? No, no, non credo che faccia sesso, so, a Gasparri. Non lo so, insomma, questo non è, non ho questa vocazione. Ma grande successo con le donne, eh. Io magari, lei me le segnali. No, Fedez. No, Fedez. Ah, Fedez. Lei questo non credo, come direbbe. Come dice nostro, non credo, vero? Il nostro amico. Cazzi tuoi, come dice quello. Ciao, ciao Maurizio, ciao, a presto. Ciao. Arrivederci, saluti. Ragazzi, siete fastidiosi. La Zanzara. Allora andiamo con Donato d'Alessandria, eh. Donato, vai. Sì, sì, io vorrei difendere a spada tratta il neurone di Gasparri. Cioè? Uno gliene è rimasto, poverino. È stato vittima della prima fuga di cervelli, gli è rimasto un neurone. E ce la mette tutta, poverino, per fare in modo che quando quello prova a aprire bocca non spari cazzate, ma non ce la fa, non ce la fa, non c'è niente da fare, più forte di lui. Per esempio una cazzata riesce... qual è? Ogni cosa che dice è una cazzata. Cioè non tu dici, Gasparri dice un sacco di cazzate. Solo cazzate. Solo cazzate. Solo cazzate. E io difendo il suo neurone, poverino, che nonostante su disputa sangue, ce la mette tutta, ma non ce la fa. Ripeto, viva il neurone di Gasparri. Traffico. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Seguono le testimonianze, adesso c'è anche un poliziotto che parla al Quotidiano Nazionale, ma ne parla ma anche... Ma scusa, dell'Italicum? Aspetta, ma chi se ne frega dell'Italicum? Ha provato l'Italicum, ma subito, chiamiamo costituzionalisti, professori, Italicum. Zagrebelsky, Ainis... Chiamatemi in diretta e ditemi, vi prego, ascoltatori della Zanzara, proprio che dell'Italicum, così, questa frase, questa dell'Italicum frase. Non ce ne frega un cazzo. Questo non credo. Dovete chiamare no, e dire no. Dell'Italicum non me ne frega un cazzo. È una cosa epocale. È cambiata la legge elettorale. Sarà altro solo per la Camera, solo per la Camera, sì. Perché in attesa della riforma del Senato. Tu capisci che se uno parla dell'Italicum. No, ve lo dicevo così, en passant. Sì, capito? È stato approvato l'Italicum. Così, poi dopo. Quanti voti ha perso del PD, Renzi? Tutti sono usciti, sono andati sulla Ventino le opposizioni, sì, no? Sì, adesso ti dico quanti il numero, 50, il numero 30, esatto, 40. Dei dissidenti. Potremmo sentire tutti uno a uno le ragioni dei dissidenti del Partito Democratico. Le ragioni dei dissidenti. Basta! No, dicevo che... Basta! Basta! Ma perché si arrabbia Giannino così? Voglio sentire tutte le motivazioni dei 57 dissidenti! Che ne sai che sono 57? Non lo so. Sì, allora, no, devo dirvi una cosa, basta. Che... che c'è, ci sono molte testimonianze ormai di poliziotti. No, sono 61, scusami. Allora, e di sindacalisti della polizia che dicono che è stato impedito. Impedito ai poliziotti di arrestare le persone. Impedito. Sì, ma da chi impedito? Anche questa roba qua è seria, è da chiarire. Ma che vuol dire? Vuol dire che c'è una circolare del ministro? Direttive di piazza. Direttive di piazza. Potevamo fermare i black bloc, ma l'ordine era evitare contatti. Questa è la cosa. Molte vetrine erano già state spaccate, però li potevamo prendere subito, fermare. Un poliziotto sostiene, questo al quotidiano nazionale, che le tute nere potevano essere fermate ed è anche molto arrabbiato. Insomma, ragazzi, allora andiamo a Caserta. Gennaro, vai. Ciao Peppino, buonasera. Vai, dimmi. Senti una cosa, avevano ragione che non potevano arrestarli, perché dopo li dovevano dare il rancio, dovevano farli mangiare, bere, costavano. È giusto, è pure così. Però volevo dire una cosa, che purtroppo adesso si era facilitato il fatto di scaricare tutto sul ministro degli interni, perché poi se la polizia magari attaccava, dopo la polemica era in senso contrario, no? La polizia. Ma guarda, nei confronti di chi spascia le vetrine, io penso una cosa, che chi spascia le vetrine, se poi la polizia attacca, c'è sicuramente qualche ferito, ci scappa la manganellata, eccetera, eccetera. Non voglio parlare di altre cose, ovviamente. Sì, ma è tutta una sceneggiata. Può darsi che sia una sceneggiata, non lo so. Può darsi che ci sia una regia, come dice Travaglio. No? Travaglio ha scritto che c'è una regia per organizzare i black bloc che spedisce. Fermate un attimo, che spedisce i black bloc. Spedisce ogni volta che c'è da coprire qualcos'altro. Io non lo so. Questo non credo. E bisognerebbe portare anche le prove di questa roba qui. Però ti dico una cosa molto semplice, Gennaro, che se la polizia avesse caricato questi signori, tutta l'Italia sarebbe stata dietro la polizia. Tutta l'Italia sarebbe stata dalla parte della nonnina. Ma non è vero. Ma ne come abbiamo no? avuti già di esperienza, no? A criticare la polizia. Poi dopo ci sarebbero state le polemiche in senso opposto, sono sicuro. Però ti posso dire una cosa che voglio dire, ci tengo a dirlo, no? Sto paese è un paese strano, sai perché? Perché siamo diventati tutti quanti un po' pappagalli su certe cose, no? Allora, se io domani mattina da semplice cittadino vado davanti a Montecitorio, ma abbasso il pantalone, mi metto a pensare un po' a Parenzo. Scusami, perché se non no, penso per a te non mi viene da cagare. E mi metto a cagare. Per carità. Sai non che ti viene succede? Da cagare, però caghi lo stesso. Allora? No, se non penso a Parenzo non mi viene la cagata. Ah, meno male allora, che abbiamo una funzione. Che ho una funzione. Ah, cioè, se tu non pensi a Parenzo non riesci a cagare. Per la tua triste vita. Allora, che bene. Succede? Io davanti a Montecitorio faccio sta cagata. Sì, il giorno persona dopo, per bene questa, molto fine questo. Aspetta, io divento famoso. Io in questo paese divento famoso. Rischio pure di diventare famoso. Sei già famoso per le cazzate che dici adesso. Ma sei diventato famoso, cazzate? Sei felice o no? Scusa, sei felice o no? Torni a casa, mangi la pasta con la pomarola in coppa e dici ho parlato alla zanzara. E gliel'ho detta a Parenzo e Crociani che vado a fare una cagata a Montecitorio. E gliel'ho detta, sono famoso, e dopo domani sto su YouTube. Sicuramente parlerete anche di me voi. Beh, questo non so, finisce qua. Vabbè, allora dopo aver cagato pensando a Parenzo davanti a Palazzo Chigi, che succede? Per dirti come funziona questo. Invece bisognerebbe, io appoggio quando hai intervistato a Liguori, no? Che dice che in questo paese si pappagalleggia troppo. Bisogna fare di più e dare dei messaggi più seri. Perché adesso tu hai fatto la tua sceneggiata, no? Hai chiamato quel anarchico, poi è intervenuto Gaspar, tutto. Però alla fine fra tre giorni non succederà nulla. Ma che deve succedere, amico mio? Dai, come Roberto da Modena, succedere? Fermo là, Gennaro. Però la storia della cagata che Parenzo ti ispira, alla merda, ti ispira di andare in bagno non è male, Gennaro. Una bella trovata questa cosa qua. Siamo una bella trovata. Ma davvero è così, Gennaro? Cioè, Parenzo ti ispira, mi stimola la cagata. Io sono pure estitico. Ma sai che hanno fatto il museo? Io voglio andare. Appena pensi a Parenzo, boff, plof, plof, plof. Ma che dico, ma che dicono a casa di te? Ma perché ce l'ha? Ma cosa ci conosciamo? Che è una volta quando vengo a Napoli ci telefoniamo. Che dicono a casa di te? Ma quanto perché sei fissato? Quanto con... si vergognano di te a casa? Come che si vergognano? Sono una persona seria. Che sì, si è visto in famiglia tua. Quanti dispiaceri hai dato ai tuoi familiari? Con questa telefonata, quanti familiari? L'orgoglio di famiglia, mamma mia. Per aver detto la verità, per non essere ipocrita o cinico. Quando vabbè, pensa ciao Gennaro, vai, ciao. Quando Gennaro, pensi a Parenzo ti fa cagare. Roberto, Modena, ciao, vai, Gennaro. Roberto. Pronto? Dimmi, buonasera. Dimmi. Beh, mi ricollego subito al finale di questa telefonata. Va depositato il marchio, l'assativo Parenzo e la defecazio non ci penso. Cioè, ma è carina questa. Com'è la storia? Com'è la storia? L'assativo Parenzo e alla defecazio non ci penso, perché beh, viene da sé. Fermo lì, fermo lì. Sì, torno, sì. Fermo. Adesso la borsa. La zanzara. Ma basta il pantalone, ma metto a pensare un po' Parenzo. Pare, scusami, perché se non penso a te non mi viene da cagare. E mi metto a cagare. Lasciativo Parenzo e alla defecazio non ci penso. Beh, direi che gli ascoltatori hanno le idee chiare sulla funzione di Parenzo. Penso è una a Parenzo, funzione importante, perché se ti si blocca l'intestino, beh, ho capito, quelli ma... sono problemi però. Sì, ma la traduzione di tutto questo è che fai cagare. Questa è la traduzione. Beh, però c'ha un tu aspetto, dici, sei onorato di far cagare. Beh, rispetto a alcuni soggetti sicuramente. Dopodiché dico, provate voi a non andare di corpo per ad esempio per 3 giorni. Stai male. L'assativo Parenzo telefonami. E alla defecazio non ci penso. Quando ti manca, chiamami. Chiamami pure. Allora, Roberto da Modena. Roberto, vai, dimmi. Come ho accennato alla gentile centralinista. Bene. Quando poco fa lei chiedeva. Chi era la gentile centralinista? Si chiama Micol per caso? Si chiama Micol? Il nome c'era? Non lo ricordo, mi dispiace. Ma non come fai a non ricordarti i nomi delle donne che chiami? Amico no, mio, anche le centraliniste bisogna ricordarsi i nomi. Ero sempre. Ero concentrato sul mio intervento, che in sintesi è questo. Concentrato sul tuo intervento, che sei all'Accademia. Dai, no. Su. Poco fa lei chiedeva ad un interlocutore perché si dovrebbero spaccare le banche e rompere questo tipo. Bene, io una risposta mia ce l'ho. Perché? Le banche, in primis fra tutti, sono responsabili dei suicidi di molti imprenditori. Ah, dunque, bene. Quindi, siccome secondo te sono responsabili dei suicidi di molti imprenditori, bisogna giusto distruggerle. No, vada. È ovvio che quando ovvio, uno certo, deve ovvio, confrontarsi con le banche, senza che io debba approfondire questo, perché basta leggere i giornali per sapere che cosa non combinano le banche, bene, c'è chi reagisce con la violenza ed è un messaggio che dovrebbe arrivare a chi di dovere, perché... Senti, non è amico mio, in questo caso ti posso assicurare che le ragioni degli imprenditori o dei piccoli imprenditori, tra virgolette, vessati dalle banche, sicuramente c'è molto da correggere, quello che ti pare, eccetera, eccetera, non c'entrano assolutamente nulla con quello che hanno in testa quei cretini che hanno distrutto sicuramente tutto. Nulla. Ma quando io entro in banca, oggi come oggi, non sono sicuro di entrare in un luogo di galantuomini, ha capito? Ma questo cosa c'entra con lo sfasciare le vetrine e distruggere le banche? Smettiamola di dire queste cazzate. Ma quella è l'opportunità che gli viene data dalla manifestazione, dove si intrufolano quei deficienti che spaccano le vetrine, perché io non li opportunità. Ma quale opportunità? Ma di che cosa? Ma non è che se le banche hanno commesso delle scelleratezze per questo le devasto, e devasto una sede di una banca come è successo a Milano. Ma di che cosa sta parlando? Nella storia recente dell'Europa, quando si tirano troppo le corde, poi ad un certo punto arriva anche la violenza. Forse all'inizio anche della Rivoluzione Francese questi venivano considerati dei teppisti e dei fanculoni, come non saprei neanche cosa dire. Però poi alla fine la rivoluzione ha messo la ghigliottina alla regina, che prometteva allora, le brioche anziché il pane. Guardi, se lei pensa che questi qua siano l'avanguardia della rivoluzione, mi sa che nella zucca lei c'ha pochissimo, guardi, c'ha le pigne in testa, come si dice una volta a Roma. Della le pigne sono in testa. Sono dei segnali che potrebbero anche portare a cose molto peggiori e che io non auspico. Ma quali peggiori? Sono 4 delinquenti che purtroppo la polizia, per ordini ricevuti dall'alto, non è riuscita a fermare. Ma da quanto tempo è che li stiamo vedendo? Ma quando mai? Ogni tanto vanno alle manifestazioni. Per l'Europa e per il mondo, ogni volta che c'è un G8, ogni volta che c'è una grande manifestazione. Certo, è un circo organizzato della violenza. Perché io sono d'accordo con lei quando dice che questi sono dei personaggi super organizzati e sanno benissimo però come agire. Però tu dici che c'è un mandante dietro, c'è un mandante. No, dietro. Non lo so se c'è un mandante, sicuramente tra di loro si sanno organizzare, tanto con internet adesso ci vabbè. Si riesce a organizzare anche ciao, senza amico mio. Ciao, avere ciao, dei ciao. Capi superiori. Ciao. Saluti, salve. Ma vogliamo sentirlo il ragazzo che repentinamente, quando il padre l'ha preso per le orecchie, ha cambiato idea? Ah, prima certo. Spavaldo, di fronte alle telecamere di TGCom 24, ha pronunciato queste parole. Cosa è successo? No, niente, noi siamo arrivati e c'era un bordello e tipo eravamo in mezzo al corteo, casino, hanno spaccato un po' di robe così. Perché? Perché? Perché è una protesta, nel senso. La protesta, secondo te, non è violenza fine a se stessa questa? In che senso non è violenza fine a se stessa? No, è una protesta, è tipo bordello. Lanciare le molotov alla polizia? No, vabbè, ma è una protesta, ripeto, cioè, giusto. È giusto così? Certo, perché cioè, noi dobbiamo far sentire la nostra voce, secondo me, e se non lo capiscono quelle buone, prima o poi capiranno in qualche altro modo. Faresti quello che avete fatto oggi? Ma io sinceramente non ho fatto niente, ho visto tanta gente che spaccava le cose, ho pensato cazzo, se avessi ancora anch'io qualcosa in mano lo spaccherei pure io, cioè io ho guardato, non è che sono stato lì, però è stata una bellissima esperienza, ci stava. Motivo a questo punto dar fuoco a una banca, che senso ha? Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia, secondo me. Questi ragazzi hanno fatto bene sostanzialmente, tu sei contento di com'è andata questa giornata? Boh, io quando sono in mezzo ai disastri sono contento comunque, cioè è una protesta, ci sta. Tu aderisci a qualche gruppo di contestazione? Boh, non lo so, quando c'è casino mi ritrovo in mezzo, faccio casino anche io, nel senso. E poi il padre l'ha pizzicato, l'ha preso per le orecchie e sentiamo cosa è uscito fuori. Io chiedo scusa a tutti perché ho usato un linguaggio sbagliato per spiegare un'emozione che stavo provando in quel momento. E mi scuso con tutti, assolutamente, io non andrei mai a distruggere la macchina di altri privati cittadini che pagano le tasse come i miei genitori. Ma i tuoi genitori ti hanno visto in TV, che ti hanno detto? I miei genitori ci hanno... un cefone, ti hanno detto? No, mio padre si è incazzato di brutto, è incazzato ancora adesso, e lo stesso mia madre, lo stesso tutta la mia famiglia. Vabbè ragazzi, dai, su, ma che figura patetica. Veramente si è... patetica. Non è che fosse patetica. L'immagine di quelli che picchiavano, però una figura patetica, ridicola. Allora 800 24 00 24 è con noi, una degli eredi di una grande famiglia italiana. Secondo te chi è? Chi può essere? Una grande famiglia. È uno dei marchi più conosciuti nel mondo dell'Italia. Moira Orfei? No, ma che c'entra Moira Orfei? No, una grande marca italiana ultra conosciuta. Una marca molto. Beh, sono tante, insomma, marche conosciute. Una delle più conosciute, non lo puoi sapere. Ti intendi di autovetture? Ho appena preso la patente. Sicuramente a febbraio non hai mai guidato una Lamborghini. No, una Lamborghini. Questo non credo. E con noi Elettra Lamborghini. Buonasera. Ciao, buonasera. Come Ciao. Stai? Sono Come Elettra. Stai? Bene, grazie a voi. Bene, non c'è male. Nome importante, cioè. Beh, Elettra. Nome molto importante, molto importante. Senti, che fai nella vita, Elettra? Io studio recitazione. Studi, ma quanti anni hai, scusami, Elettra? 20 anni. Beh, giovane. Settimana prossima faccio 21. Beh, ancora ci si può permettere di studiare. Vogliamo smentire una volta per tutte, cara Elettra, questa tua idea che era venuta fuori, ma che in realtà non è vera, di fare un film porno. Ecco, la signora l'erede Lamborghini no. Che voleva fare un porno. Smentiamolo una volta per tutte, no? Sì, no, ma l'avevo già smentito già ormai da un mese e mezzo. Ma diciamolo, sai, girano sempre delle voci poi da questo punto di vista. Dunque, tu non hai nessuna intenzione di far porno, perché dici... Ma che no, assolutamente, io non mi rivedete mai. No, non ti vedremo mai. Non ti vedremo mai a fare film porno, eccetera. Ma il genere ti piace o no? Il porno? Il porno, ti piace? Oddio. Come genere, come film... No, sono cose intime, vabbè, sì. Non so, fare senza a 20 anni te lo sarai visto in vita tua un porno in vita tua, certo, no? Ma tutte le donne, penso. Beh, tutte le donne. Tutte, cara, questo non so, però questo non le credo. Fa onore che lei lo dica così, no, apertamente, insomma, a 20 anni, a 20 anni, per esempio, quando io avevo 20 anni, le ragazze, no, le mie coetanee sicuramente non l'avevano visto. Tu ancora oggi guardi film porno a quasi 50 anni? Sì, no, ogni tanto guardo, compulso anch'io, certo, perché tu non vai ogni tanto sui siti porno? No, mi capita molto. mondo. No, no, non vai. Da, ma non adesso vai, sono andato da ragazzino, adesso francamente. Da ragazzino, no. Perché non ho capito. C'ho 39 anni. Ma qui a 39 anni non si va più sui siti porn. Non ho detto che non si va. Cioè, ho lei detto frequenta YouPorn e questi siti. Ma la signorina ha 21 anni. Signora Lamborghini, che c'entra? Io ho 21 anni, però adesso comunque penso che le generazioni stiano crescendo molto rispetto a qualche anno fa. Sì. E secondo me molte ragazze sì. non lo dicono però lo fanno. È vero, non lo dicono ma lo fanno. Ma sì, lo ma fanno. Va benissimo, anche lei, anche lei ci va tranquillamente ogni tanto, così per curiosità, no o no? Ma oddio, dipende, cioè, dipende. Non è che no, ma lo metterà in pratica più che guardare, no? Adesso ecco. Scusa, dai. Cioè lei si reputa una persona molto una donna molto passionale? No. No, no, no, non lo so, dai, cambiamo argomento perché... giustamente, no, giustamente la imbarazzo. Allora, facciamo, affrontiamo questo argomento. L'erede Lamborghini, uno degli eredi Lamborghini, come vede gli scontri di piazza? Cioè, quei ragazzi hanno delle ragioni oppure no? Rispetto a quello che è successo venerdì, mi sono molto vergognata perché comunque io abito a Milano, in quel momento appunto. Non ero a Milano perché ero ammalata, però ho avuto comunque paura a tornare, paura. Sì, è stata una cosa abbastanza patetica come avete detto voi. Magari potevano danneggiare pure qualcuna delle macchine, no? Delle macchine di famiglia. Quanto no? Costa proprio la Lamborghini? Non so, quanto costa una Lamborghini? Lo comunichiamo ai signori. No, no, così lo comunichiamo ai signori. Ai signori Black Block che sono. Dimmi un po', Letta. Che le parcheggino con tanta... Le parcheggino fuori, non vanno parcheggiate fuori. Non vanno parcheggiate fuori. Vista la gente che gira, meglio di no. Senti una cosa, ma quanto costa una Lamborghini oggi? Allora, rivedo la mia affermazione che ho fatto un mese fa. Penso, anzi, direi più di 300.000 euro. Più di 300, più di 300.000 euro. Ah, nuova però. Nuova. Sì, Beh, certo. Fa anche il caffè dentro. Più però. Di 300.000. No, che caffè? 300.000. No, ma 300.000 è normale per una Lamborghini. Quanto lo vuoi pagare? Non lo so, non mi intendo. Ma ho preso 300.000. La patente. Senti, ma lei personalmente non ha bisogno di lavorare, mi sembra, no? Non avrà bisogno di lavorare nella vita, o no? No. È bellissima questa perché? Cosa. È una cosa che. No, ma è bellissima questa cosa. Cioè, l'erede Lamborghini nella sua vita non avrà bisogno di lavorare. Nell'azienda di famiglia lavorano i suoi fratelli, no? Mi sembra. Ora no, però i miei fratelli vogliono lavorare comunque. Sì, ora no, però insomma vogliono lavorare là. Lei però, non gliene frega niente di lavorare. Qualche anno in prima. Sì, lei erediterà e basta, diciamo. Si può. No, è bellissima come vita. Beh, vedremo, io comunque ho anche un cervello oltre che. No, è perché il cervello lo si può usare anche senza lavorare a Lamborghini, però, Beh, insomma, ha la pappa un po' pronta o no? Esatto, no, è quello che vorrei evitare. Ah, vorrebbe evitare di avere la pappa pronta, dici? No, no, cioè, avere la pappa pronta, ok, però anche una soddisfazione personale penso che ci voglia. E che vuole fare nella vita, signor Lamborghini? Non lo so ancora. No, no, un'idea ce l'ho, però. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Work in progress. Work in progress. Io ho visto delle foto pazzesche. Quanto porti di seno? Ma quale domanda è questa? Beh, è bellissimo. Ci sono delle foto meravigliose. Mi piacciono moltissimo quelle foto. Sono lo foto... scusi, signora Lamborghini. Lo scusi. Ogni tanto vi faccio prendere un po' la mano. Scusi. Ma quanto porti? Quarta, non è una classe A. Quarta, quinta. Una settima abbondante. Settima abbondante. Ma senti, vabbè, naturale, no? No, magari. Abbiamo fatto il ritocchino, eh? Abbiamo fatto il ritocchino. Il ritocchino, la settima abbondante. Tra secolo. No, beh, no, no, qui ora insomma, carità, ha scelto no. Il momento adatto, diciamo, per una ma quanto costa arrivare alla settima? 10.000, 20.000, quanto costa di più? Ma quanto costa? Ma diciamolo, tanto qual è? Ormai mica è un delitto fare la cosa, mica no, bisogna... praticamente non lo so. Non lo sai, ma tanto mica li conti i soldi tu o no? No, vabbè, cioè, nel senso che io ancora non lavorando a pagare il fa, giustamente. Ma sì, ma ha ragione, ma che gli frega? Cioè, è fortunata, dipende, ragazza, comunque, intelligente, dipende, brava, dipende fortunata. Cioè, tu controlli chirurgo, quanto lo controlli il tuo chirurgo. Conto? No, ma certo, dipende dal chirurgo, non sai quanto hai pagato. Vabbè, ma chi se ne frega, va bene lo stesso. Ma tu lo controlli il conto in banca oppure non hai bisogno? A me mi affascina questa cosa, una si chiama Lamborghini. Controlla il conto in banca o no? No, non credo. Ma sì, ogni tanto sì, il mio sì, ogni tanto. Eh? Mi arriva la posta e controllo. Sì, sì. Ti arriva là? Ah, ti arriva la cosa e controlla. Ah, la posta e controlla. Sì, online, come a chiunque, dai. Ma con, sì. Con numeri diversi, ma insomma. Con numeri un po' diversi, sì, con numeri un po' diversi. Vabbè. Ah, ecco, sto guardando delle foto. La signora Lamborghini con un cavallo. Che braccia un cavallo, ad esempio. Sì, vedo, molto cavalli. Bene, molto bene. Molto bellissimo, bellissimo. Non mi intendo tanto di macchine, ma di cavalli sì. Di cavalli sì, di macchina non tanto. Ma quante Lamborghini hai? Tante altre foto, ma. Ce l'hai? Perché mi fate queste domande? No, no, così per curiosità, magari ce n'hai una sola. Ma una, ne avrà due, 22, tre. Ma scusa, 23. Quante ne hai tue personali? Ne ho abbastanza, Personali? Cioè, non... No, c'ho la mia, la che mi ha legato in qua per i miei 18 anni. Ma lei si fidanzerebbe con un operaio della Fiom? Lei si fidanzerebbe con un operaio Fiom? L'amore è cieco. Brava. L'amore è cieco, dunque anche però... non sta a guardare tanto il portafoglio, dipende. Ma te che te frega, tanto c'hai te il portafoglio. Ma le è mai capitato ad esempio di uscire con un metalmeccanico? Ma perché un metalmeccanico? Perché proprio un metalmeccanico, una cosa incredibile, dai, cosa su. Pauperista assoluta, dai, assurda. Lo frequenteresti un metalmeccanico? Parenzo vuole sapere se frequenteresti un metalmeccanico. Oddio. Ho due metalmeccanico. Non lo so, bisogna vedere se è amore o amore, nel senso che se una persona mi colpisce... Chi se ne frega, tu dici, della posizione, no? Sì. Ma io non ho capito una cosa, ma se ti bruciavano una Lamborghini, cosa avresti fatto? Una Lamborghini bruciata, in fumo, eh? Ah, cosa devo fare? Ti saresti incazzata come con una bestia? Come ha bruciato altre persone, sarebbe potuto capitare anche a me. Ma ti saresti incazzata con una bestia oppure dici no vabbè tanto io ne ho altre 20 è ovvio, dai, è ovvio. Sei arrabbiata, è ovvio, vabbè, già mi dà fastidio vedere in televisione quello che sta accadendo, beh sì, è fastidioso, non può fare niente, cioè, d'altronde no, nulla. Va bene, ciao cara, ciao. Cosa mangi stasera? Sai cos'è l'Italicum tu? Lo sai cos'è l'Italicum? Sì. No. Non lo sai cos'è l'Italicum? L'Italicum? No, no. E che? Il cambio automatico. Cos'è l'Italicum? Dai, non mi fai queste domande. Cos'è l'Italicum? Aspetta che cerco su Google. Vai, c'è su Google. L'Italicum. Italicum. Però ha ragione lei. A noi dell'Italicum non ce ne frega un cazzo, nulla. Mauro dalla provincia di Cuneo, per chiudere. Mauro. Ciao, Lorenzo. Dimmi. Ciao, caro. Ciao Cruciani, ascolta, ciao. Ciao, io volevo solo dire che insomma sono tutti contenti che non è successo niente o cose. Mi ricordano un po' Chamberlain quando è ritornato da Monaco tutto contento, cioè? Non ci sarà più guerra, cioè la polizia non ha fatto nulla e va bene, ma se continua così andrà sempre peggio. Si poteva avere la guerra o disonore. Vabbè, me lo spieghi meglio domani, perché è un concetto molto, no? Chamberlain. A domani 18:30, ciao. Ma basta il pantalone, mi metto a pensare un po', Parenzo, scusami, perché se non penso a te non mi viene da cagare. E mi metto a cagare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Lassativo Parenzo e alla defecazio non ci penso. Radio 24. La passione si sente.